dunque ho lasciato da pochi minuti circa Massimo, dove poco fa ci sono state delle cariche. In realtà la finanza, i carabinieri, anche la polizia hanno risposto a lanci di pietre, bottiglie e di fumogeni da parte di alcuni, non si capisce bene, manifestanti, ma comunque a volto coperto, incappucciati, che erano lì e che hanno sostanzialmente provocato le cariche. Dopodiché c'è stata una sorta di situazione di accerchiamento, per cui insomma hanno incominciato a colpire un po' tutti. Soltanto adesso il corteo ha ripreso regolarmente la sua marcia. Io qui adesso mi trovo l'Aventino e insomma qui la situazione è molto più distesa e tranquilla e pacifica, del tutto pacifica. Mi trovo esattamente in viale della Piramide Cestia. C'è stato qualche momento di tensione anche in corteo subito dopo le cariche, alcuni manifestanti hanno incominciato a malmenare un ragazzo incappucciato e bendato che era in corteo e che hanno visto lanciare un pezzo di marmo su alcuni dei manifestanti che sfilavano pacificamente. Insomma, la gran parte della gente che c'è qui non si è accorta di quello che è successo, sì, infatti tutti sembrano non sapere, ecco, questa è la situazione al momento.